Siamo in molti, sono venuti anche da lontano, io li ringrazio veramente sentitamente. Non ho nessuna intenzione di fare una sintesi iniziale di quanto verrà detto, o perlomeno un'introduzione, tenuto conto che questo dibattito si incrocia da molto tempo, in particolare sulle pagine del manifesto, però ha toccato anche le pagine di Liberazione, ha toccato le pagine di Reset. Sono usciti molti libri, sono stati recensiti in particolare da Marco Revelli, ormai mitico Alan Beard, Lasciato al cielo l'alternativa, e poi il libro Il trionfo della moltitudine di Aldo Bonomi, Le due destre di Marco Revelli, tutta la collana in genere della Boringhieri, che noi perlomeno come Carusca amiamo piuttosto, perché ci fornisce una serie di strumenti, non è una piaggeria, ma è vero, visto che la teniamo per larga parte. E le questioni in campo, al di là del titolo che prevederebbe probabilmente un seminario di 3 giorni e non un pomeriggio, evidentemente, però certamente molti di quelli che sono presenti in sala che hanno seguito questo dibattito, è arrivato anche Benedetto Vecchi, che ringraziamo, è già arrivato, dopo che ci siamo incazzati ieri, lo dico, ma forse adesso non c'è più, siamo a posto. E direi che abbiamo deciso che siccome... Aldo Bonomi in particolare, oltre che aver collaborato a questo libro sui centri sociali con la sua struttura, più volte è venuto in questo luogo e anche nei centri sociali, anche gli altri per dire, però, e che è intervenuto su più argomenti, compresa la recente polemica sul ruolo del generale manifesto, abbiamo pensato che lui possa fare una prima introduzione, in modo che poi gli altri, ovviamente non definitiva per ciò che riguarda la sua partecipazione, ma come messa a fuoco di una serie di problemi, e poi andremo di conseguenza con gli altri relatori. Grazie.